24 mattino. Serve aiuto? Si è fatto male? Mi pare guidare, Marcel! Adesso mi tocca prendermi un tavolo. Ma io te conosco. Ma tu non sei coso? Varese! La branda di sopra che serve a Duca degli Abruzzi la Spezia! Ma tu sei... Frosinone, la branda di sotto! Ma quanto tempo sarà passato la ranaglia? 20 anni, quanto? Ciao, ma tu sei proprio uguale a 20 anni fa. Tale quale tua mamma, spiccichiami, cicchè. E te invece no, ma che fa? E capelli andò rimessi sotto traccia. E stavanza, amore mio, sei una tragedia. E siamo passati direttamente dalle strade a questo Vacanze in Natale 90, la scena di corsa con la Ferrari e Boldi e De Sica in una loro gag classica. Allora, lei proprio le cita tutte a memoria, Luigi, queste scene, le conosce tutte? Beh sì, noi tra l'altro sempre cito i miei 15, 16, 17 anni, i miei anni da teenager, avevamo delle cassette audio che preparavamo a casa, dove c'era il pezzo del film, la battuta, e poi partiva il pezzo. E questa era una cassetta che girava ovunque e venivano replicate e c'era tutto. Era una specie di YouTube antelitteram. Sì, esatto. AudioTube. Allora, Luigi De Laurentiis, Valerio De Laurentiis, qui con noi a commentare, a raccontare cosa succede sui giornali, e io inizio subito a darvi l'idea dei titoli. La Repubblica apre: banche e scontro sulla Boschi, Vegas presidente, Consob in uscita all'audizione alla Camera, lei mi parlò di Etruria, temeva un accordo con Vicenza. Intervista la sottosegretaria, e daremo un'occhiata anche a questo, inusuale un invito a casa sua via SMS, non ho mai fatto pressioni. Anche il messaggio. Mi sembra che questo Vegas sia ben allenato per diventare, come dice Lotito, presidente della Lega di Serie A. Ah, è una battuta questa cattiva? No, non è una battuta, è uno spot su quello che sta succedendo. Ah, quindi c'entra già col botto. Entriamo a gamba tesa. Lezioni romane, l'albero scelto dal Campidoglio battuto da quello in Vaticano. Un'altra cosa interessante del Messaggero. Banche, riesplode il caso Boschi, e questo è il titolo del Corriere della Sera. Vegas mi parlò di Etruria, sempre le parole della Boschi. Lei mi invitò a casa sua alle 8 del mattino da sola. Ho gli SMS, guardate come si entra. Il fondo di Massimo Franco, un doloroso boomerang. Il manifesto, il biotestamento è legge ed emoziona. E poi la foto con la Boschi che sussurra qualcosa con la mano, l'Etrusco colpisce ancora. Il foglio, cos'è un tradimento, un ribelle, un traditore, l'ultimo tormento del Regno Unito alle prese con la volontà popolare, questa è l'apertura di Paola Peduzzi. Però poi c'è un pezzo di Giuliano Ferrara, tutto da leggere, l'impareggiabile vertigine del cavaliere Berlusconi. La Stampa, processo alla Boschi, anche qui banche, processo alla Boschi, la difficile posizione del bersaglio e il fondo di Sorgi. E poi c'è una cosa che riguarda il cinema, la Disney compra Fox. Questa vicenda da più mesi, e due sere fa c'era stata confermata questa finalizzazione da parte della Disney, che comprando la Fox diventa e si trasforma in una vera grande piattaforma multistreaming, per cui... Quindi questa è una cosa che produttivamente cambierà. Ma chi lo sa se potrà. Loro dicono che lo sport non gli interessa, ma in fondo potrebbe essere una sponda interessante anche per noi del calcio, no? Già un cliente. Ma chi lo sa. Allora, Tardelli sulla prima pagina della Stampa prende una posizione molto netta sul caso Donnarumma. Caro Gigio, ora basta, lascia il Milan. Un film eccellente, un campione di Spagna, dice il vaso è rotto, nessuno è più in grado di reincollarlo. Qui da presidente, quando si rompe il vaso, si riesce a reincollare qualche volta? Ma i cocci rotti, incollati, rimangono cocci rotti, no? Tu che dici? No, infatti rimangono rotti, lo penso anch'io. Lei ha mai avuto una rottura insanabile che ha detto basta, non si recupera? No, perché ho un carattere esplosivo e calmissimo, nel senso che nel momento in cui mi inquieto vado fuori proprio ogni tipo di regola, ma questo mi aiuta dopo 3 secondi a aver dimenticato tutto. Avvenire, il confine della vita, Biotestamento, legge sconfitta, e ovviamente la posizione di Avvenire, il fondo no, non è un bel giorno, una posizione diversa sul Biotestamento. Come la pensa lei sulla scelta, l'autodeterminazione sul fine vita De Laurentiis? Ma veda, la politica secondo me arriva sempre in ritardo. E quindi su questa legge secondo me noi siamo molto in ritardo, ma soprattutto non dà quei limiti applicativi per cui non si può uscire fuori da un percorso etico. Perché c'è una bella differenza tra etica e morale. Allora qui vogliamo fare tutti quanti sempre i moralizzatori, ma non vogliamo mai esporci, il che è gravissimo, perché quando si parla non di morale ma di etica c'è di mezzo una filosofia. E la filosofia che cos'è se non amore per il sapere? E il sapere che cos'è? È dare la tranquillità e la serenità agli altri. Allora la mission di un politico è quella di dare la serenità agli altri, cosa che secondo me non avviene. Bellissima questa lettura, molto sorprendente. Guardate Libero, passata la legge, infuriano le polemiche, come fare il biotestamento, ecco il manuale per ottenere la certezza che venga rispettata la vostra volontà in caso di incapacità di decidere. Quindi saltano tutti gli schieramenti, e qui abbiamo un produttore italiano che dice siamo indietro, qui abbiamo Libero che dà le istruzioni, la verità. Totalmente diverso, andate a morire ammazzati in pace, l'eutanasia è una legge dello Stato. Il Giornale invece torna come era prevedibile sulla Boschi, boschi di bugie, bomba banche, Berlusconi all'Unione Europea, con me l'Italia stabile, e insomma c'è grande polemica su questo ed arriviamo al Tempo. Bindi, ultra a caccia di fascisti, ma le curve rosse sono belle. Questo ovviamente è il titolo del Tempo, che è critico, però c'è questa notizia dell'antimafia che entra a gamba tesa nel pallone, è caso di dirlo. Rosi Bindi dichiara guerra ai tifosi di destra e dice nelle curve c'è forte infiltrazione. Sì, ma Rosi Bindi, che è una persona che io stimo moltissimo, dovrebbe fare guerra al Ministero degli Interni, perché il Ministero degli Interni sono tantissimi anni che si è preoccupato dei famosi tornelli, ma non si è mai preoccupato di fare la cosa più semplice del mondo: prendere la legge inglese della Thatcher e portarla, importarla, modificandola, adeguandola all'Italia. Quindi lei vuole molta severità? No, io voglio, il contrario voglio di quello che dicono, no, sono i presidenti. No, io voglio le regole. Se lei pensa che noi siamo ancora governati da una legge nata nel 1981, la classica legge 91 dell'81, quanti anni sono passati? Ma nessuno ci mette mai. Io quando la prima volta che, stimando Luca Lotti, gli ho detto scusa Luca, ma tu sei ministro dello sport, per la prima volta abbiamo un ministro dello sport, la prima cosa che devi fare è buttare a monte la legge 91 dell'81, perché rende responsabili noi club di fatti di cui noi non siamo responsabili all'interno di uno stadio. Quando io sento dire basta con la polizia negli stadi, più di 100.000 persone addobrate, sono fregnacce, perché dentro agli stadi la polizia non c'è. Ci sono c'è gli fuori. Steward. C'è fuori, ci sono gli steward. Altra mega cavolata del mondo, perché hanno creato la figura degli steward e poi non l'hanno catalogata nemmeno da un punto di vista del diritto del lavoro. E questa, allora siamo andati con i voucher avanti per molto tempo, per molti anni, e poi all'improvviso li hanno fatti diventare un super costo a carico. Qui le devo fare una domanda, perché lo steward del Napoli è diventato una figura letteraria grazie a De Luca, l'imitazione di Crozza, perché tutti ormai sanno che Di Maio da ragazzo ha fatto questo. Si rende conto che potrebbe fornire un futuro premier al paese? Se non l'aveva mai incontrato lui. Vabbè, ma voglio dire, la cultura calcistica in Italia assolutamente forse è più importante della cultura universitaria, no? Quindi voglio dire, anche lui ha assaporato quelle che sono le problematiche del popolo italiano, no? Perché è molto calcisticamente pregnante, no? Dico, quindi a un certo punto uno come lui ma lei è sicuro che loro vinceranno? Loro chi? I 5 Stelle? I 5 Stelle. È una possibilità, eh? È una possibilità. È come per lo scudetto. Ma ce la farebbero a governare da soli? E non potrebbero andare d'accordo con gli altri. Chi lo sa? Pronostico non politico. Non sarebbero di più 5 Stelle, no? Allora, 7:28, ci fermiamo. Ancora una brevissima pausa per il meteo e torniamo fra poco. Curiamolo. Leviamogli il metadone. Mattino. Io faccio degli stupendi alberi di Natale, sono cintura nera di albero di Natale. E invece quest'anno cambio tutto. Ho deciso di fare il presepe quando nelle scuole dicono che non si può fare perché altrimenti offende chi crede in un'altra cultura. E proprio non me ne faccio una ragione e continuo a chiedermi: ma come fa un bambino che nasce in una mangiatoia a offenderti? Come fa a offenderti una famiglia che scappa per difendere quel bambino? Come fa a offenderti la mia cultura? Prendiamo il pastorello e facciamo la rivoluzione del presepe. Guardate come si combinano i simboli del Natale, della politica. Giorgia Meloni rinuncia al suo albero di Natale. Abbiamo visto che la polemica sullo spelacchio a Roma nasconde e ha raccontato molte cose dell'Italia, la burocrazia, i costi, ma anche quell'albero che veniva dal Trentino, come abbiamo spiegato ieri, ha subito un viaggio che lo ha debilitato. E allora, raccontando l'Italia attraverso il super panettone di Natale con Luigi Aurelio De Laurentiis e raccontando super vacanze di Natale, stiamo raccontando anche un po' il costume di questo paese. E, prima di tornare subito ai giornali, guardate il rapporto padre e figlio in un cinepanettone. Sentitelo. Generale, ce l'abbiamo fatta. Natale su Nilo. Voglio proprio vederlo in faccia questa piccola delinquente. Stronzo! A verbale, offesa pubblico ufficiale. Papà, e falla finita. Tanto io farò la ballerina. Comunque da domani tu devi fare la persona seria. Ma io sono una persona seria. Ah sì? Sono una figlia perfetta. Ah. A scuola ho tutti 9 e sono l'unica in classe mia ancora vergine. Tanto tu la ballerina non la farai mai. E quando dico mai, io dico mai, mai, mai, mai, mai, mai. Papà? Cosa che è? È inutile che mi impedisci di fare i provini. Tanto io farò la letterina e sposerò un calciatore. È difficile il rapporto fra i padri, i figli e anche le aspirazioni. E voi per fortuna, Luigi, vi siete trovati nella bottega come gli antichi artigiani, no? Il padre e il figlio che seguono. Qual era il sogno da bambino? Diventare produttore o fare l'astronauta? No, diventare produttore quasi da subito, perché crescevo sui set che erano dei mondi fantastici. Mi ricordo gli attori, mi ricordo all'epoca Tognazzi su Bertoldo, Bertoldino e Cacasino, che era un film in costume ed era vestito da pezzente, mi fece molta... era stranissimo vederlo così da vagabondo, e quindi entrai subito in un mondo fantastico e da lì poi anche portare il nome di mio nonno fu motivo di orgoglio nella mia crescita. Quindi da Luigi Aurelio De Laurentiis a Aurelio Luigi De Laurentiis e chissà come sarà il nipotino. Repubblica ha l'intervista, diciamo, del giorno, Maria Elena Boschi. Non c'è nessun conflitto di interessi, mi usano per coprire i veri scandali bancari. Avete forse in mente ieri quel duello duro con Travaglio, in cui Travaglio ha detto lei dovrebbe dimettersi subito, e lei risponde a questa domanda fatta da Tommaso Ciriaco su Repubblica. Lei rischia comunque di danneggiare Renzi a 3 mesi dalle elezioni, non pensa di doversi dimettere? E lei risponde: non ho intenzione di dimettermi sulla base di bugie dette da altri. Sono 2 anni che ripetono che ho mentito in Parlamento, non è vero. Si cerca, attaccando me, di mettere in discussione un intero progetto politico. Il PD è più forte delle bugie. Un'altra risposta importante in questa intervista a Repubblica. E quando parla di inusuale, intende dire che aveva intravisto un secondo fine in quel famoso invito a casa sua fattole da Vegas? Mi sembrò inusuale, visto che non avevamo un rapporto di confidenza. Gli dissi che avrei preferito vederci al Ministero o alla Consob. Mi pareva più corretto per il ruolo di entrambi vederci in un luogo istituzionale. Mi stupisce che oggi in commissione Vegas si sia ricordato di tante cose e non di questo SMS fra i vari che mi ha inviato. Quindi vedete, sono 2 verità inconciliabili e c'è uno scontro molto duro. Ovviamente Renzi ancora ieri a Piazza Pulita ha difeso la Boschi e la polemica è aperta. Sull'apertura di Bersani e 5 Stelle, sul Corriere, a pagina 5, trovate la foto famosa della diretta streaming, anche questa sarebbe una bella immagine per la commedia, perché Bersani rilancia: sono quello che voleva dialogare allora e voglio dialogare anche oggi. Corriere, scusate, pagina 12, ho dato la pagina sbagliata, ma il senso del messaggio è questo. Allora torniamo all'Italia degli scontri anche legali. C'erano tre cause per bloccare questo film, il Super Natale, invece sono state Super Vacanze di Natale, sono state persecute. In questo film ritorna per la prima volta la coppia Boldi De Sica, che sono state persecute dagli altri. Sì, sono state vinte da voi, perse dai concorrenti, ma la coppia virtuale potrebbe ricongiungersi dopo questo film, soprattutto. Beh, se questo è l'unico film che esce a Natale che ha rimesso insieme la coppia Boldi e De Sica, quindi secondo me agli affezionati del genere non rimane che venire a rigustare questa coppia per la prima volta dopo dal 2005 divisa, ricostituita, no? Nel meglio del meglio, messo in piedi da Ruffini, che salutiamo. Paolo Ruffini ha avuto un percorso anche abbastanza complicato, perché è andato sulle montagne russe percorrendo chilometri e chilometri di pellicola sui quali ha ricostruito davanti all'Avid in Moviola una nuova sceneggiatura, un nuovo film. Quindi il pubblico si divertirà molto a vedere delle cose che non è vero, come dice Christian De Sica, riscontrabili su YouTube, perché tu su YouTube dovresti innanzitutto sapere cosa è stato montato nel film per andarlo a riperticare. Quindi bisogna andare a vedere il film, che tra l'altro annovera, avendolo sperimentato in sala, più di 35 grosse risate, mentre invece di solito in un film comico ormai ce ne stanno soltanto due, c'è tre, pure il risatometro. Quattro. C'è il risatometro, sì, c'è il risatometro. E allora Salvini si arrabbia per la battuta di Gentiloni, tutti aspettavano questa risposta. C'è l'intervista su Repubblica, pagina 13. Silvio dica basta, reduci e riciclati, e su Gentiloni vedo troppi inciuci. Cosa dice il segretario della Lega? E, insomma, tornerà a sedersi al tavolo del centrodestra? La Meloni, gli chiede Emanuele Lauria su Repubblica, ha già promosso un incontro natalizio. Non ho bisogno di mediatori e di accompagnatori, mica è una gita. Mi piacerebbe scambiare gli auguri con gli alleati, ma mi piacerebbe di più capire se abbiamo un futuro comune. Quindi il segretario della Lega è molto duro, e ci sono anche i politici nei cinepanettoni. Ma il cinepanettone non c'era, è mai politico. Se no, mai il personaggio, la maschera, no? Come lo no, ma le per esempio mi ricordo in Sognando la California, stiamo nel lontano 92 se non sbaglio, e a un certo punto ci sono Fassari, Boldi che disquisiscono a tavola dicendo: ma tanto l'Italia non cambierà mai, noi stiamo bene così, siamo fatti così. E poi parlano delle dentiere di Donald Trump, e poi parlano di Berlusconi. E quindi già nel 92 Berlusconi non era ancora sceso in politica, perché mancavano due anni, lui è sceso in politica nel 94. Cioè, noi abbiamo anticipato un pochettino quello che in fondo stava pippiando, direbbero i napoletani, no? Come un grande ragù. E quando stava bollendo. Quando tu fai in pentola il ragù e prende forma. Prende forma facendo delle piccole vulcaniche bollicine, no? Allora, sempre leggendo i giornali, a mattina insieme alla famiglia De Laurentiis, c'è un retroscena sul Messaggero, Valentina Errante, i timori della Boschi per la fusione e il ruolo di Verdini nell'incontro. È una ricostruzione, un retroscena. La sottosegretaria chiese la mediazione del leader di ALA per vedere Vegas. Era preoccupata per l'offerta della Popolare. Ho l'impressione che non finiranno ovviamente qui, le polemiche su questa audizione. Avete sentito la tesi della Boschi, nulla di improprio, un ministro può parlare con un rappresentante di un'autorità, avete sentito la voce dell'accusa, si deve dimettere, e ovviamente è il tema che sarà al centro della campagna elettorale. Allora ci fermiamo per le strade e torniamo dopo questa brevissima interruzione di nuovo qui in studio. E ricordatevi di Super Vacanze di Natale. No, lo sanno, lo sanno. Ma di che stiamo parlando, ragazzi? Mattino. Serve gente povera, furba e affamata, senza sentimenti. E se vuoi un amico, prendi un cane. E allora entriamo nelle pagine del Sole 24 Ore per darvi due importanti letture e qualche notizia. La lettura è che dopo tutte le polemiche sul biotestamento è importante capire che cosa cambia con questa legge. E allora devo dire che Mariolina Sesto e Lucilla Vazza hanno fatto un lavoro prezioso con un super schema in cui si racconta tutto quello che cambia con questa legge. Ovviamente c'è il racconto della giornata, regge un asse PD Movimento 5 Stelle che ha permesso l'approvazione in aula, i cattolici erano divisi, il no della CEI, Gentiloni contento che dice una scelta di civiltà. Che cosa potrà accadere dopo questo voto? Si potrà rinunciare a cure e nutrizione artificiale. E la Lorenzin, ovviamente il ministro che ha seguito la pratica, ci tiene a precisare: non ci sarà nessuna forma di eutanasia. E Gilberto Corbellini, è il primo parere di analisi, di approfondimento che il Sole offre, dice: è una legge che prova ad allinearci agli altri paesi europei, più o meno quello che diceva De Laurentiis un attimo fa. E Francesco D'Agostino dice: un passo avanti, ma sulla bioetica resta ancora molto da fare. Però è un passo avanti perché alcune cose sono già accadute, quindi non ci sarebbe un nuovo caso Welby, non ci sarebbe un nuovo scontro su togliere o no, staccare la respirazione artificiale. Quindi sicuramente è un grosso passo avanti. Si può fare un film drammatico sui temi civili oggi in Italia? Il cinema degli anni 70 era pieno di instant movie che raccontavano il terrorismo, i sequestri. Oggi su questo c'è più prudenza o più difficoltà? No, diciamo che il mercato del cinema al cinema, grazie alla non esistenza di una legge punitiva vera, limitante della pirateria, il cinema si è molto ridimensionato, quindi non so se un film drammatico avrebbe la possibilità di ammortizzare i costi uscendo al cinema. Questa però è una cosa molto seria che lei questo, dice. No, il questo, mercato non può non reggere più. Ma difatti noi ringraziamo Franceschini per aver fatto una legge straordinaria, però purtroppo nel frattempo il mercato si è molto ristretto e quindi non permette più degli investimenti lungimiranti. Allora, dal mercato del cinema a quello delle monete, c'è un corsivo molto interessante, in realtà è una lettera manifesto di Lorenzo Codogno, Charles Godard e Dimitros Tsomokonos, che parla sul Sole della valuta fiscale e dice: perché diciamo no alla moneta parallela? Perché sapete che questo è un altro tormentone della campagna elettorale. E la lettera inizia così, parte dalla prima del Sole e gira pagina 10. Quando due terzi delle forze politiche, almeno sulla carta, sono favorevoli all'introduzione della moneta parallela, tutto questo non può che preoccuparci. Quando poi un dettagliato punto di vista economico della Banca d'Italia stronca questa idea e nessun giornale lo riporta, questo ci preoccupa ancora di più. E la moneta parallela è un po' come una grande promessa elettorale, un po' come un grande sogno. Questi tre economisti spiegano perché non ha senso. Ma l'apertura, pagina 3, Banca Europea, ripresa robusta, ma c'è bisogno del cannone di Draghi. Rivista viste nettamente in rialzo le stime e la crescita, mentre l'inflazione sarà all'1,7% non prima del 2020. Questo vuol dire che tutti i timori sul fatto che si interrompesse la politica di sostegno della Banca Centrale Europea per ora sono archiviati. Finché dura il mandato di Draghi, forse anche complice il risultato delle elezioni tedesche, e questa misura, che per l'Italia è stata tanto importante, può sopravvivere. Allora leggetevi Alessandro Merli sul Sole a pagina 3, perché questo nodo influenzerà tutto, non solo la liquidità, il mercato, ma sicuramente la nostra economia in maniera diretta e indiretta. Vogliamo sentire un altro frammento? Vacanze in Italia 95, Gratta e vinci, la scena del pokerino natalizio. E dai, no, e gioca su. Uscirà dall'incrocio dei pali e zin! Io te la darei battena fucilata, vedi? A Remo, al posto del culo c'è una cassetta dei cocomeri, eh? Ma quale culo? A Fabio, spiegati proprio con chi stanno a giocare. Io so come Pelé, come Ribò, come Albertone Tomba, come il Brunello di Montalcino. I'm another category, eh? Dai, a famari vinci, dai, stavolta li sfonnamo. Ma che ve sfonnate? Con ste facce da sfigati potete provare giusto col Gratta e vinci. Questa era un'altra delle scene, no? È un personaggio antico della commedia all'italiana, qui De Sica veramente fa il centone dello sganassone, del giocatore d'azzardo. E, c'è ancora questa Italia che ha una facciata di rappresentanza e poi si gioca la casa sui tavoli di Verdi? Sì, assolutamente. Luigi De Laurentiis. Tutto il mondo delle scommesse in Italia è gigantesco, le slot machine, cioè veramente ancora molto attuale. Poi tra l'altro Christian in quel film interpretava anche suo padre, che era già 40 anni prima nello stesso tipologia di ruolo dell'arrogante, dell'italiano scommettitore. E quindi è una maschera che non tramonta. Stavamo discutendo prima nella pubblicità, quindi non lo avete sentito, del fatto, cioè, quanto si poteva essere grevi, come è aumentata o diminuita la grevità degli spot, delle scene, delle gag. Sono stati abbattuti tutti i confini, Aurelio? Ma perché in realtà poi non erano grevi per coloro che avevano la coscienza sporca. Che abbiamo già affrontato questo discorso tra persone per bene e perbenisti. Allora, il perbenista è sempre uno che si mette addosso una divisa, no? Ma non è. Io vorrei vedere poi con quale sincerità affronta la propria vita. E noi abbiamo sempre poi messo sulla scena dei cartoni animati. Giustamente dice Paolo Ruffini, il cartone animato è come Gatto Silvestro, cioè non ha una sessualità, non ha una volgarità, ed è per questo che i bambini hanno sempre amato a dismisura questi film. La cosa incredibile, ormai questi film negli ultimi 2 anni sono passati su Sky, quindi non tutti gli italiani potevano vederli, ma un mondo di bambini non ha fatto altro che ubriacarsi con questi film che vedeva su Sky, e li vedeva, rivedeva, rivedeva, e le mamme che io conoscevo mi dicevano... Non sono scandalizzate, sconvolte? No, mi dicevano, ma sai, è incredibile, il nostro figlio sta lì e lo vede 3, 4, 5, 10 volte, cioè per noi è una manna perché stanno tranquilli. Mettimi la mitragliata, perché questa è la notizia più incredibile di oggi. Questa è veramente da vacanze in Natale. Quella corsa in Lamborghini che inguaia il giudice. Bologna. Gli offrono un giro sulla macchina mentre presiede un processo contro l'azienda. Lo schianto e la morte dell'autista. C'è un'interrogazione parlamentare al ministro Orlando, ma immaginate un giudice che durante il processo fa il giro nel bolide dei sogni. Questo veramente può finire tranquillamente nella scena di un film, è vero Luigi? Assolutamente. Poi noi in anni 90 avevamo la storia di un giudice che era interpretato da Massimo Boldi, che si trovava nel mondo delle tangenti, quindi c'era la figura politica nei nostri film, c'era la satira certo, delle tangentopoli. Ci fermiamo ancora e torniamo insieme a Oscar Giannino con i cani e con i gatti.